poquito atrás, así como un feedback, como un extraterrestre atrás. Ya varias veces él te oí, pero y yo pensé que se iba a quitar, pero te lo quiero decir para que lo sepas, ¿no? Que está sonando algo y lo va a hacer que se te fuese. Grazie. 7, io penso a tu. Vai a tu, lo copia a Cristian. Sinceramente non riesco a copiarlo bene perché c'è un po' di QRM alto. Se la sta un liscio e libero non c'è altro problemi, ma magari lui mi sente. Cristian, mi senti? Lo senti Antonio Cristian? Basso basso, vado a QRM, ce l'ho. Ha detto che ti ascolta tu praticamente mezzo al QRM. No, io già l'ho sentito adesso, quest'ultimo passaggio. È un bel casino, beh, ma dov'è? Praticamente lui è in via Pascoli, capito? Sì, in mezzo alle malattie, è logico che proprio perché sul viso chi sai pure, viso c'è un greco che fa il casino, molte volte copre molto il segnale, copre, poi c'è tutti i palazzi io. Ma sicuramente adesso mi sente, Cristian! Ti ascolto passo passo in radio, perché se mai c'è un movimento. C'è nessuno? Avanti. Avanti. Buonasera. Buonasera a lui. Compagnia di Antonio Bombolo e chi è? Spacco, sì, sì. Cappa California, questa buonasera, ho copiato il tuo QRZ. Perché non ce l'ho, sono già Franco la scimmia, ciao Fra. Capito di Franco la scimmia, hai dato che non fregati con lui, no? Ciao. Cristian, puoi passare a casa? Scusa, la scimmia, proprio. Chi è che ti dà Franco? Senti un po', qui, dove sei? Sono a Pasquale, qua la pulitano. Ma devi andare a casa tua? Oh! Oh Cristian, ti ha fatto una domanda, adesso se devi andare a casa tua. A me. Ehi, Giraggia non mi ascolta, dai. Mica attacco a casa. Ma senti, non si sente mezzo a QRM. Sì, ma io l'ho portato per Gibuni. Ah, oggi vuoi la portata, vai a salutare. Entra, entra, io. Saluto a tutti. Ciao, Massimiliano. Vabbè, perché sei così basso? Perché sono in baracca, come la vogliamo chiamare. Allora già va bene, va. Tagliena, fittendisi io. No, sto mettendo di quelle lampade che quando mi avvicino si accende. Ah, ok, da. La terza giorno ti stai facendo. Allora, sai, è aumentata la benzina, devo prendere un po' di marijuana. Ok, da. Non so chi c'è, sono entrato a gamba tesa. Chi c'è avanti? Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Ciao Massimiliano. Ciao California, c'è il bombolino. Ehi, mi senti lì dalle tue parti, a Marciaculetta. Io, cos'è tu? Fratello. Carica che qui, dai, oggi non c'ho quel disturbo. Mi arrivi in Santiago 4 e mezzo 5, dai. La radio un po' massiva, ma già va bene. Va bene. Utilizzando poca potenza, pochi vatto ciò. No, già arrivi anche qua, dai. Ho detto, Massimiliano, hai fatto fuori, cazzo, l'ossigeno gli hai tagliato. No, vabbè, è morto, ma non era su, non era roba sua. No, stasera non ce l'ho, magari sto pensando che sia un'altra cosa, là. Perché comunque entra l'antenna, perché ieri ho fatto una prova e ho messo così un accordatore di antenna, no? Giusto per, anche se stazionale non ce n'è, e lo elimina completamente, solo che i segnali arrivano tutti in basso, capito? Però lo elimina completamente. Capisco. Vabbè, dai ragazzi, che devo fare, sennò poi rimango senza luce stanotte e non so dove mettere i piedi. Cristian, QTC, non mi sente Cristian? Chi è questo Cristian? Parallelo di riserva. No, non lo sento, mi senti Cristian? Ciao, di te Cristian. No, io non lo sento, là. Avanti, Califfo. Massimiliano, e allora, a me mi senti, sì. Vabbè, aspetta, lo saluto, ciao Cari, Tino sono, ciao. Ciao Tino, buonasera. Ho detto, mi ascolti Massimiliano lì da te? Sì, ti ascolto, ho voglia. Sto trovando questo K, il C80, che era un po' di tempo fermo, ho detto che solo mette funziona, per sta andando. Sì, va bene, ho voglia. Sì, vabbè. Sto pilotando pochi watt, La battente balaeria dovevo far pilotare di Sagosso. E io sarei vuoi dare? Perché anche la città vanno bene anche una decina di watt. Infatti, 10 watt non durati, a bicchini 20, Andare, ok. Avanti, signor Bombolino. Ehi, mi guarda. un chilo di bicchiette a radio, fanno poco di più. E che no, non mi sviluppa tanta tanti watt, capito Massimiliano? Ma quello lì, quello è sempre quello del 550. Ehi, l'Intec. Mitica una radio, ma tu? Mitica Blu. Sì, già ve la giù uno o due anni già che c'è radio. Adesso devo... Allora? Ah, mi piacciono 747, mi piacciono. Ma Massimilia, guarda questa come la radio, sei più forte. Sì, è più forte, ma tutta... come... boh, mi metto la lavatrice, pare. Troppo amplificata. Troppo, c'è un eco, sembri dentro la chiesa. Guarda, adesso se va meglio. 1, 2, 3, 4, l'ho abbassato un po'. Sì, così va bene. Era troppo alto, se evidente. Segnale com'è, guarda quell'altro, più forte. No, è più 20, sì, qua a casa mia. Aspetta un attimo, faccio vedere. Guarda un po' adesso. 25. Ciao. Adesso quanto? Quasi sul 30, ma quasi, non ci sia ancora. Ok, così dovrebbe andare bene. Però così, sì, sei sul 30, però sei un po' saturino così, Allora ti facciamo così, così dovrebbe andare bene. Di lusso, perfetto. Scappa di positivo. No, sto facendo una cordatura. Ok, così ok, va bene. Infatti mi stava dando un pochino cattivo. Magari c'hai troppi watt di pilotaggio anche, capito? Allora io vi, questa qui e questa sta andando con, riesciamo a vedere, con 2 watt col picco di 28-30 questa radio c'ha. Va bene, 9-20, radio 5, buona, ultima qua. Pilotati 30 modulati. Di lusso, no, io che ho già pilotato. Va bene così, lo posso ancora abbassare di watt. Adesso faccio scendere 1, 2, 3, 4, 5. No, che per fiacco di fava, vabbè, non venuta, no. Infatti, Artù, per fiacco di fava. Guarda, Fra, secondo me quando la radio la usi con ingresso di pochi watt esce meglio. Per me, io l'ho sempre usata a 2 watt e mezzo, 1 watt e mezzo, dipende cosa... Io per esempio, se no ve lo uso con mezzo watt. Adesso lo pilota qua, adesso faccio uscire con 5, anzi 2 watt, 3 modulati, così, aspetta, adesso sta con l'applicatore però un po'. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino un po'. Vedi, la radio è meglio così. Anche secondo me dovrei abbassare un pochettino l'eco ancora, però la radio non se la mangia, vedi, la radio è bella e più o meno lo segnale si dice 9:20, però è inutile avere 9:30, la radio va di chifo, capito Fasa, ti voglio dire, KK. Ecco, adesso ho abbassato l'eco e sto uscendo con la radio normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aspetta faccio più. Ok, così dovrebbe andare bene Massimilia. Così sei di lusso, qua, sì, 9:20 e 5, perfetto. Allora lascio così, va benissimo, ok. No, io sto andando poco, praticamente l'ho pilotata a 2 watt con l'amplificatore, va quasi a 100, dai. Corno quasi? Quasi 100, a picchi di 90 a 100 modulati. Ce ne per i maiali, a voglia. Addirittura lo posso ancora abbassare. Vediamo un po'. Così dovrebbe andare meglio. 1, 2, 3, 4. Sì, così va bene. Va bene anche così, Fra. Ma infatti è inutile aumentare dagli troppi vari. Tanto non servono niente, non si vede. Sì, ancora si abizzatini, non bisogna fare. Avere 200 watt per parlare qua a Sass, ma lascia così. E infatti, non avrà la candela, capito? Lascia così. No, ma poi questi controlli li devi fare con gente magari lontananza o me, cioè fare dei controlli dentro Sass di quello lineare, boh, non lo so, boh, capito? In lontananza si fanno queste prove, là. Vabbè, comunque, già sale. Ripeto, Fra, quando la tieni con i watt bassi la radio comunque migliora. Vabbè, certo, va Bambi, adesso ho abbassato ancora la amplificazione di questo microfono. Addirittura ho tolto anche l'eco, così dovrebbe andare bene. Normale, preamplificato, un po' di preamplificazione e basta. Così va bene ancora. Ok. Vai a... No. Sì, già andava già. Andava, già lo dovevo andare. Stavo dicendo. Se vorrei dire una cosa me la sono dimenticata, la razza di gatto che faccio. Vuol dire quando te la ricordi me la dici. C'è anche un 48 modificato qua a Macevia. Oh. E me l'ha dato un amico camionista, mi ha regalato questo 48 e due antenne pure. Assomiglia. Dimmi a tu. Ah, mi intendevo la bestia. Aspetta però, lo devo attaccare. Aspetta un attimo, se mi dai un paio di secondi lo collego, là. Così te lo faccio sentire. Sì. Fallo un po'. Quello cosa attaccato, a me ti sento bene. Ma guarda, anche lui arrivi bene qua. Se Santiago 9, 9, 5, Radio 5 è buona, ultima. Ultima modulazione, va benissimo. Io già non credo che andrà bene. Pure se c'è un po' in occhio, già. Già va bene, già. Non è poco, no, da dove sono è tanto, non è che si avvicinano. Ma io qua problemi non ne ho, ti ascolto benissimo. Chiappa, tu sei da una Monte Rosello alto, ti andava. Vabbè, per avere l'antenna che ho, diciamo che va bene, dai. Guarda che con l'antenna non c'è niente da dire, me l'abbia voluta io una. Perché quello ha detto la Monte fa bene, non ha problemi. Oggi mi sono attaccato al telefono, un bicho della lepre. Oh, per cosa? Per la lingua? Sì, andiamo, glielo ho detto. Lei ce la rispedisce, mi ha detto, noi gliela mandiamo gratis, tutte cose. Ma guarda, io sinceramente di quelle antenne non avrei più comprato, a parte che non sono le lingue di prima. Scusa la frase, non vale la nulla. Sì, sì, ma adesso quella là io me la riparo, quella nuova, io ne ho, glielo ho detto. Glielo ho detto tutta questa situazione qua, che non andava bene nulla. Loro mi hanno detto che se gliela riferisco me la danno gratis e tutte cose, capito? Ma te ne compri una uguale alla mia, quella che ho pensato io qua, 45 euro, 50 euro, con su e spedizione, e va bene, non devi tarare nulla, la fai la pena la piazza. E allora, vabbè, adesso cosa faccio? Se la rampo, la torre con i tagli, adesso tieni, la cosa ce la butto, ma è la piazzata e va bene. Avanti, Massimiliano. Vai, positivo, volevo far ascoltare questa radio Antonio, dai, Antonio, cambio. Un po' di whisky, Massimiliano, me lo sento bene. Come fa questa radio? Un po' ferma, dai, la facciamo girare, dai, tutto roggero, cambio. Una bombetta, Massimiliano, una bombetta, va benissimo. Sì, chi sa bomba a forti, bomba. Soprattutto se gli altri amplificatori, chi sa, coppietteggia. Guarda, Antonio, adesso lo aggancio, aspetta. Attacca. Oh, Antonio, mi ascolti così, cambio. Sì, adesso sì che ti ascolto bene. Vai, Massimiliano. Guarda un po' quando arrivo lì, quelle coordinate, un po' cambio. E forte Nokia, pare. A Nokia, ci arrivo lì in quelle zone, da tu. Sì, sei oltre 9, sei 9.15, sì, o anche oltre. Ma cazzo sei bumpente? Aspetta. Sì, ya. Guarda, vedete adesso che non mi ero accorto che mancava ancora qualcosa, dai. 9.20, sì, ammazza di varia. Spingerti a quella amplificatore. È positivo, dai, a te fra, bene arriva, sì. Sei 9.40 qua, Massimiliano. 9.30, 9.35, modulato 9.40 alla mia stazione, se arriva. Va bene, dai, sgancio, ciao. Quanti vatti sta dando lui? Quello che ti avevo fatto vedere la tua volta, dai, in foto. Chi si è aperto? Mi ripari, io c'ho un 1.200 che ci sono in finale bruciati. Ma ti posso indirizzare da una persona brava, va? lei a Siracusa. Ah, K. Più o meno il costo cosa? In cash? Non lo so, 1200 da camion, mi sembra sia un nome finale quello. No, è da stazione base 220 trasistorizzato, il VV 2001. 2002, non 2001. 2002, sì. Quello monta 4 finali MRF 422. Scappa di positivo. E io penso mettendo le nuove sulle 300 euro ci stai dentro. Ah, capito. No, perché non dà tutta la potenza, capito? Da metà della potenza. Beh, magari c'è qualche finale in perdita. Sicuramente bisogna cambiarli tutti. Quando reggiamo li bisogna fare tutti. E adesso vediamo, per adesso lo lascio così, anche perché pesa un trono. Oh, si dico, vai, tutto rocce, la voce è bella, cambi. Adesso fra un po' iniziamo a fare casino, va, cavolo. Vabbè, come metti un linea attaccata. Era corrente cosa è troppo gara, va, capito, ma ci vediamo. Sì che è una radio. Ehi, Tattalino. Ciao Massimiliano. Dai, riprendo con l'altra, ciao. Ok, là, sono tornato non visitors, ma normale, là. Quella è la radio di Massimiliano, cara. Ma che è Tino, Quelle sì che le facevo rullare io. Cara, frate, tutto sotto controllo, qua, cambio. Tattalino c'ha la voce che la porta bene quella. Quella con l'elicottero mi piace. €450 Tattalino, ciappi, chissà. Ma è meglio che mi ritenga in buccia a cara io. Le 450. E anche di meno, là. E di solito quelle che ho visto io, ne ho visto un paio di alla 48 modificati, doppio modulatore sulle 300-400 euro. Vabbè, ma queste qua le radio non hanno bisogno di doppio modulatore. Ma infatti, esce bene già così. E quella di Gigi la facevo girare bene io. Te l'ho detto, se la vuoi te la vendo io, il 48, 200 euro te lo prendi. No, che non c'ha l'elicottero quella, a me mi piace l'elicottero. E certo che c'era l'elicottero, basta aprirlo da dentro, io l'ho chiuso, capito? Perché non mi interessava, però lo posso aprire se vuoi, non c'è problema. Apri prima e va. C'ha il doppio modulatore, scheda accolto, canali sotto e sopra, il MIPI è tutto infatti, regolabili da 10, cioè da 5 a 25. Con quella sì che ne fai casino nel 45, gara. Ma io veraggio non idrato, no, non mi interessa, capito? Oh fra, guarda normale così se esce bene. Cappa, sì, va bene. Natalina, a te bene va, senza ecco, senza niente. Ma va benissimo, va, no? Senza abbastanza bene. Oh fra, possiamo fare una prova RFM con questa? No, vai sul 20. Va sul 20, là. Cappa. Ora, Cristian, ci sei? Hola, chico. Ma volevo fare giusto queste prove, vedere se la situazione era tutta a posto, va? Comunque era tutto sotto controllo, frate, ma ci sono problemi, capo. Non mi piace, se sta usando quella non mi piace. Ma questa è una di Roberto, te lo lascio. Allora. Beh, permesso. Avanti. Sì, dimmi, stavo provando la radio a farla ascoltare a Antonio se gli piaceva. Via. Ho fatto sul 20. E niente, sembra che siete andati. Andare. Ciao Tino. Stavamo facendo un paio di prove per vedere se una radio di quella là usciva bene, là. C'ha giusto l'FM, ma allora c'ha CV doppio FM, AM banda laterale, USB e LSB, però molto probabilmente magari l'FM c'ha un trimerino all'interno che vuole regolato per uscire bene, capito? Ma tu, mi stavi chiamando? Ehi, già mi senti pure da qua, sì. Guarda, perché sento Santiago 3 Radio 4, quindi va bene. Vabbè, non ho tanta potenza, era per il già. No, non è niente. Proviamo a migliorare, dai, c'è un baracchinetto, c'ho. Esatto. 4, 5, 4, quanto hai? Sì, più o meno. Vabbè. Ma se veniva, quanto arrivavo con quell'altra radio? Quella era un set SSB. Comunque, 34 canali, può essere, 32, ovviamente. No, 23. Mi arrivavi 9 a picchi di 9,5, 9,10 quasi. Vabbè, non 3 canali, 4 watt. Beh, vabbè, sicuramente abbiamo un punto buono noi, perché tu adesso vedi lo stesso, mi arrivi bello forte, capito? Però oggi mi ho acceso la radio, ho visto che non c'era quel disturbo, ho detto beh, oggi mi posso 5 minuti di chiacchierata, là. Però quando c'è quel disturbo non fa entrare. Non ho uno di disturbo io quando attacco un inverter, mi fa salire il corrente a 9, quindi giustamente il massimo, ma non riesco a togliere fuori, quindi evito di attaccarlo. Sì, ma ascoltati, io mi sono costruito un dipolo, ok? Senza stazionario, senza nulla, cioè in orizzontale, fatto un pezzo di filo, cioè RG58, eppure entra lo stesso questo coso, quindi fatto un conto in orizzontale, mi capito, non in verticale, quindi è proprio un disturbo, boh, non so di che cosa. Ma c'ho ancora la mia vicina che c'ha ancora le luci di Natale accese, figurati. Ma niente di strano, potrebbero essere quelle. Ma qui che chiama Capitano Ventoso e trovato. Ehi, gira, come la fa così. E magari adesso già si apre la propagazione, magari questo rumore già lo copre. Capito? Magari può essere una cosa temporanea, comunque adesso vediamo. Va bene, dai ragazzo, al limite riprendo dopo, ok? Vai Natalia, riprendi tu e vado a fare una bella docetta. Natale c'era, ciao Natale, scusa. Ciao a tutti, buonasera. Che bene che stai uscendo Natale, non ti ho mai sentito così. Bene sto uscendo. Sì, c'è una bella radio veramente. K, io so che non è un K, però da vicina là. Già lo sappiamo, un nome è una garanzia, Cava. Magari da casa o più tardi, ok? Ciao Antonio, ciao Matteo Massimiliano, te la riascolta dopo, vai Natalini. KK, fra quando è che le piazziamo quelle staffe? Io che ne ho le scatole piene di stare con questa antenna del cavolo. Quando fa una buona giornata a casa si fa, te l'ho detto. Gaba, che è tutto pronto qua. Ascolta fra, mi serve del tubo da 40, devo fare due bobine. Tubo da 40. Ma il PVC? Devo fare due trappole, devo fare per un'antenna. Devo controllare il campagna, sono il tubo da 40. Due pezzi da 40 centimetri me ne servono. Quando scendo però un po' se ce l'ho da 40 con la misura. Che devo fare due bobine. Kappa, andare. Tino! Nuova! Anche tu mi ascolti, bubu. E ti ho ascoltato anche poc'anzi, che ero nel container. E mi sentivi? Con l'antenna di gomma, allucinante. Se mi ha anche risposto, non è perché ho sbagliato con la scimmia. Luglia, ti scende, va. Ma ti stavo confondendo con una persona. Tino, e a me mi senti con l'antenna tutta crepata? Mi sentite con la pesca senza lenta? Stavo dicendo, sì, l'altra sera sono andato a trovare un amico a Tomasino. Ho visto la tua antenna lì piazzata, abiti vicino a lui. Sì, da Giampiero. Da Giampiero, un amico mio Giampiero, anche il padre, ci conosciamo la vita. È il mio confidante, sì. E sono io questa persona, ho visto a Tomasino, cazzo, io non ho saputo niente, infatti sono andato a trovarlo, ragazzi, sono rimasto un po' così. Vabbè, a me lo stesso mi conosce dalla voce, non è che mi conosce perché mi vede, no? Però vabbè, sono andato anche da poco, ultimamente, a salutarlo, dovevo passarlo. Ma io non sapevo niente, capito? Allora senti come va, mai piacere di trovarlo, sono già a trovarlo, sono rimasto così, non sapevo nulla che aveva perso la vista, capito? Lui era sempre mezzo, insomma, c'era poco, anche la diciamo proprio volte giovane. Sì, già però lo conosco lo stesso, c'ha il camioncino, fa giardinaggio. Abitavano prima sotto casa, poi si sono trasferiti in campagna e qui ci siamo, diciamo, ci siamo un po' persi di vista. Tutto lì. Capito, K. Ok, dai, riprendi la tariffa. Sì, K. Ma così è la vita. Io via, faccio per fare la tariffa. Perché non c'è la salute. Sì, hai visto in che condizioni precarie muoio io, non è che sono altissimo, capito? Sono ancora bassa. Sì, sì, l'ho vista l'antenna, ma c'è una matola 5 piazzata. No, la 1. Ho la 1 vicina, poi c'è un'altra antenna e basta, poi non ho visto l'altra. E poi ho detto, ma è Dio, lui me l'ha detto, lì ci abita Pino, ci abita. Oggiamo, ha detto. Allora, è così. Scappa, scappa. Vabbè, e c'ha l'età sua, ma poveraccio, una vita che lavorava quell'uomo, dopo io va in pensione, succede anche di mancare, perde anche la vista, cazzo, che sfiga, va. Anche se non è che stava, tra virgolette, benissimo, però vai, un po' si è ripresa. E infatti anche lì dice, mi stava dicendo, aveva fatto il vaccino, è stata molto bella, è stata male anche. Vabbè, ci vuoi fare qui. Vabbè, ma dai, io mi rimango un attimino in quel rischio, che devo fare qualcosa al PC, lancio, speriamo lo prendo a testa Natalino col microfono, aspetto i saluti e poi vado via. Vai Natalino. Ciao, buon QRT, grazie per le quattro chiacchiere in questo QSO, ci sentiamo alle prossime, Tino. Avanti, Fra. Questa è la riprendo io, ciao Tino, buona serata, buon tutto, buon carica quando lo farai, e ce l'ascoltiamo alle prossimine. Via, ciao a tutti. Capo di positivo, vediamo se ha ripreso Antonio Bombo. Antonio riprende. Sì, un attimo, bisogna aspettare che faccia una bella giornata di sole. Quel lavoretto si può tranquillamente fare, senza problemi, capito? Vai. Cattolino attore, via Bettore, buonasera. Ciao Squaletto. Vabbè, no, e allora? Aspetta, stasera, censura, si è andato a Punica Giulio. Fa due di Zannubi. Aspetta, ci dico, da 1,89 chi era anche da passata. Si sa che da gatta è a 1,80 a 2 di Zannubi. Stanno facendo di tutto per farci uscire con l'asinello, ho capito. E poi siamo, non è buon cucina che non abbassa. Cioè che non abbassa non è buon che andrà a piedi. Ecco, dice che l'ha messo il correttore di sasso da 1,67. Peli, bisogna essere ribussemmo, hanno figliami nessuno, deve venire a filmare tutte le macchine, verrai si abbaccia, Mara so se chi l'accudia, speculatori del cavolo. Vabbè dai signori, io vi lascio che devo fare cosa in cucina, ma vi ascolto comunque, dai. Appagata Natali, dai, ce la devo ascoltare più, se la saluta in casa, ok. Sì, in effetti va attore così, quando è riuscito a piedi, qua, non se ne può più. Questi politici si hanno di nuovo aumentato lo stipendio, capito? Sì, anche Casiani Mani, no, con lo stipendio che erano i biglietti. Se lo aumenta, se aumenta niente, aumenta tutto. L'hai compreso? L'anima ci ha detto. Oh, proprio non se ne può più di questa cosa qua. Aspetta, aspetta che ammetta, un centesimo, deve aumentare di 10 centesimi. Se non abbassa non è bongo. Ma non l'hai visto, per l'Italia ne sono prendi di tutti i manesi, le porte aperte a tutti, un casino. Infatti. Aspetta, città mercato è la più bassa di tutti, allora è la più alta di tutti. Sì, la città mercato è tutte le parti, diciamo che il gasolio è alto, capito? Non solo la città mercato, è tutte le parti. 2,30 euro, 2,19 euro, capito? Ah, lì era sempre bassa, non superata i 2 euro. Questa si è stata a 2,19 si è alzata. Ma il giro di una ghetta, amico. Ma chi ci bisogna un po' più comprare la benzina nel gasolio? Infatti è così, no. E che ci vuoi fare? Ascolti una cosa. No, ho sentito via Dio Maria, come vai? Io l'ho sentito domenica, l'ho sentito. Ieri dove c'è che c'è fa gente e non è entrato. Ma penso che stasera entri, boh. Non l'ho sentito, sono una volta che non lo sento. Infatti ho detto, ma non sta bene. Stavamo domenica, mi stavamo parlando. Domenica sera. Ieri sera dove c'è che c'aveva gente e non è entrato. Sì, no, già sta entrando. Quando c'è gente non entra. Ho capito. Vabbè. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Ieri ho tolto l'eco da questo micro, da questo a radio, ma va meglio così. Sì, no, è abbastanza chiara. È un po' amplificata e con l'eco. Ma ho finito di eco, però lo volevo abbassare ancora. Aspetta un attimo. Così dovrebbe andare ancora meglio, capito? C'è sempre l'eco, c'è. Vabbè, ma non è eccessivo, là. Insomma, già è comprensibile. L'importante è che vada bene, che si senta bene la radio, poi per il resto, diciamo che non mi interessa più di tanto. Infatti è così. Infatti è così. Con l'M più 5 presidente Iap presidente Gerson, sì, quello AMFM solo, e il Gerson 40 canali, no, 80 canali, no, non lo conosco quello, io ho un Midland 80 canali qua, cioè canali che giri la manopola e scende sugli 80 canali, giri la manopola all'altra parte e va il canale su. E ho capito, canta. Quindi, quando vuoi andare nel 45, prendiamo sempre lo siciliano o un calabreso. Dico che fa vedere, come ti fa vedere dove? Un camionista. Hai compreso che sono quei geni? Eglia, capito. C'è sempre con alterato e grugoso. Ma ti sei scendendo qua, va. Quello che aumenta l'eco, quello che c'ha, che entra secco, ogni tanto lo sento, adesso una volta che non ascolto. C'è un tempo che non intendo, non l'hanno abbassato. Ehi, quello arriva un bel forte lo stesso. E che adesso arrivi voce, quando vai a propagandare c'è quanto arrivi. Lo so. Quando si trova in Piemonte lo sento, lo sento benissimo, lo sento. La gente un attimo, ti vedo più... Se lo difende rugoso, no, che non si vede nulla. Certo. Ha giunto. Ma se ne da trattare, Rusannatori. Però funziona. Ma giù controllato per tutto a posto e non anda. Ah, mi tocca comprarmi un nuovo. Come mai non fatto? Ah, cioè, devi darsi bruciata, che resistenza ci devi darsi bruciata. Però si è caduto troppo e non andava. E ne ho visto uno, 62 euro. E c'ha a fianco, c'ha il coso anche per scaldare i cosi, anche i circuiti. Ah, ho capito, sì, quello è la fase saldante, quello per regolare l'intensità dei watt, così è. Più c'è così, i numeri fosforescenti. Ho già compreso, vero. Guarda che non sia il termico invece, di solito certi soldatori hanno un termico e quando te lo dimentichi attaccato va in blocco termico. E domani mattina ci torno a controllare, a vedere. Dopo che tornai in coso e me la baglio. Se no, se qua abbassi, siamo un biglio nuovo. Se no, se non scalda, l'unico problema c'è la resistenza bruciata, capito? Non può essere altro. Infatti, quello che stavo guardando è la resistenza, ma c'è di scaldare e non scalda per niente. Allora è rotto, è andato in blocco termico. Di solito dove c'è la punta, dove vai a saldare, sotto al manico c'è un interruttorino piccolo, e quello è un termico. Non so tutti che ce l'hanno, prova a vedere. Aspetta un attimo, no, sotto non c'è nulla, se no lo devo aprire per vedere. No, non c'è bisogno di aprirlo, perché vicino al manico lì, dove c'è proprio la puntata della resistenza, lì sotto ci dovrebbe essere un piulino. Ah, nel saldatore? Cappa di positivo, di solito quando lascia attaccato interviene con il blocco termico. Ma l'ha più visto uno da poco, da cosa, di puli sono buoni. Che cosa, 11,90 euro. No, Fra, no, non c'è nulla fuori, ci sono due viti e bisogna aprirlo a vedere, se è da quello lì. Ma quale di quei saldatori istantanei? Di quella pistola è il saldatore? No, c'è il regolatore e l'interruttore rosso. Ah, il regolatore e l'interruttore rosso. È possibile, o c'è la resistenza bruciata, oppure c'è il prima del partito del coso, della stazione saldata. Sì, domani a Baida vede secondo cosa è. Opra, che avanti. Io sono. Ma non mi dica di saldatore che devi chicciare all'antica e scaldavano quelle. No, sicuramente qualche saldatore con la stazione saldante, a quanto ho capito. Ah sì. Ne ho visto uno, 11,90 euro da liter. Questi sono buoni, sono tedeschi. Il saldatore buono è anche stazione saldata, ma pagherà meno di 80-90 euro, un saldatore serio, capito? Con le punte fini. Perché quei saldatori con la punta grossa non servono a niente. No, allora non è che non si viene a nulla. Cioè, vabbè, io ne ho uno fine e uno corto, però per saldare bene quelli, li devi pulire la punta. Io sai cosa ho fatto l'altro giorno per fare quel lavoro che ho fatto, per farlo perfetto. Faccio la mola a banco, sono andato in chiwi, piano. Lui provalo dopo e poi attaccami la saldatura. Beh, intanto la punta di rame è quella lì. Si può pulire tranquilla. No, io di solito lo pulisco con la spatola d'acciaio. Ehi, con quello lì io lo pulisci, cioè, io ho quello leggero con la piega. Leggero glielo passi. Poi vai a saldare e domani che ne attacchi più questa saldatura. Perché prende forte. Ce l'ho io, quello della Lide, quello che c'è adesso c'è, no, c'è sudato, è quello lì. Ah, da molto ce l'hai? 3 anni ce l'ho, ma l'ha già saldato di roba, ma adesso ce l'ho lasciato troppo acceso, ma non scalda. Sì, chi ci sta facendo invece? Ma io ne ho uno, c'è uno da tanti anni, ne ho uno cinese, ne ho, guarda che funziona bene, la salita fa un travaglio, la giubbassa di luce leggero, la punta è diventata bella, la punta è rame proprio, cazzo, sono andato a assaggiare, un treno era da accendimi. Subito, si scioglieva subito lo stagno. Ma quando scalda troppo, si bruciano i fili anche, si bruciano. Lo so, se lo lasci troppo atteso, sì. Il problema è quando devi fare una saldatura in un circuito stampato, che scalda troppo, bruci tutte le piste, capito? Lo so, infatti non deve scaldare, deve saldare subito, deve, capito, soldatore? Cioè, se tu andi, sai 2 ore così, che non ti salda, allora si gli fai danno. Ecco perché ci vogliono quei soldatori con la stazione saldata, per regolare l'intensità dei fatti, capito? Per evitare che si bruciano le piste quando sta saldando. Sì, è così. Comunque vetorra a me, me l'hanno fatto vedere a me, mi torre. Vetorra per su da MD, magari. Se ti compare di chisso, ti dura altri 3 anni. No, oh, l'ho già visto. Quello che me lo prendo, c'è la punta in acciaio, c'ha fine, che le puoi cambiare. E c'è anche il coso per scaldare direttamente lo stagno. E metto gli io di quello che vuoi senza usare il saldatore. Anche quello che c'ha le punte è cambiabile. Io ci ho vedato un pulsaro, l'abbiamo incomparato uno in occhio, bravia. Fa 62 euro, cosa vuoi? Spedizione gratis. Ma tu stai dicendo saldatore di saldatore, quello io. Fa anche da di saldatore, però usando il coso termico che scalda, hai compreso? Tipo quel phon che scalda parecchio, che ti serve a un certo coso per stringere le guaine. Quello lì c'è il coso quadrato anche per scaldare le diodi e altre cose. Se ti scioglie lo stagno piano piano e ce lo togli fuori. Ho capito, tipo di quei risaldatori ad aria, so. Allora per tirata, scappa, che volevo entrare avanti? Lo più grosso. Sì, no, ho capito. Lo più grosso. Più grosso. Lo più grosso, Aspetta, fra, il più grosso già lo sai come ci sono, no? Esce a controllare la graffitina se li porterà via la frasina, va. E quanti sono questi grossi? Fammelo comprendere. Dipende da... da cosa vuoi. E dipende da te, non da me. Oh, da me non può dipendere. Comunque, buonasera. Ci presentiamo sempre noi. Ah, scusa, sono nuovo, capito. Ho acceso da poco, Stavo provando, sono nuovo. Ma per quello, Nominativo? Lo più grosso. Intervi grosso. Sì, no, diglielo tu. L'hai riconosciuto, ok. Sì. Ha detto che è nuovo. Ah, non ci vuole dire il nome. Se te lo sto dicendo, sono quello più grosso. È il mio nominativo, come te lo devo dire? No? Di nome? Massimiliano. Nuovo. Certo, nuovo. E te giurai, non vuoi? Perché tu non riconosci la modulazione, capito? Ciao, dottore, io sono quello... Allora, ci ho fatto la doccia, sono quello, non penso. Bulldozer da questa, buonasera. Stai andiamo. Ci ha fatto la doccia, è diventato un uomo nuovo. È fresco, no? Però, dottore, te lo fottendi, Andiamo bene. Avanti, signor Fra. No, mi sa tanto che tu stai prendendo, sei bisogno di goiti. Non l'avevo riconosciuto, bravo Zinova. È Nuova che ci ha fatto la luce, ha compreso. A voi mi ha giù un attacco, buono, non penso. Io mi ha giù fatto la luce, mi ha giù buco un bel Zinova, buono. Però tu ti hai buco un bel Zinova, però fai fiaco di fava. Forza, cazzo, per Zinova va a tirare, no? Vamo lì, fiaco di fava, va a me. A me pare che sia con i piedi che se non si trovava. Andato. Uia. Va bene, signori belli. Antonio chiude le trasmissioni. Dopo essi ti tendiamo la gatta. Va bene, Antonio, ciao, buona serata, buon rientro a casa, buon tutto. Uia. Torre, ma bene arrivo lì alla veloce. Che cosa? Ma Torre, se vuoi dire. Cosa mi stai dicendo? detto che c'è da qua, arrivo bene da Santa Maria di Pisa, lì a Latte Dolce. Però mi sei basso di radio, posso lontano lontano dal microfono perché non riesco a ascoltarti. Adesso mi senti meglio? Sì, insomma, così così è, mi tocca fare un volume per intenditi. Ma di segnale bene arrivo a Latte Dolce. Ah, 9:30 mi stai arrivando. Così forte. Sì, prova perché ho passato l'affare. 9:30 9:10 a picchi di 9:30 arrivi. Addirittura a picchi di 9:30 vai in Oramara. Ma dici vai il barattolo troppo alto. Già va bene, dai. Ok. Ok, ciao a tutti, dai, ci saluto, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Antonio, buonasera a tutti, ci riascoltiamo il prossimo, va, Massimiliano. Ciao Antonio, buonasera a buon di tutto, dai. L'avo di Navarra, quando arrivi a casa, è tutto rotto. Marto. Ciao Antonio, stammi bene. Ha detto Califfo, guardate là, la foto che ti ho mandato. No, negativo perché c'è il telefono in cucina, adesso la guardo. Ok, anda Pex. Ma mi sa che l'hai già mandata quella di quell'applicatore. No, ti ho mandato una foto di una radio. Ti ha pagato, no, poi l'ho affiata. Quella che costano intorno alle 1100 euro, 1200, non l'hai mai vista? No, non ci ho fatto caso. Ma quella con lo spettro? No. Sono quelle radio Colt che prendono, marca Colt 8000, GX, bimbumba. Ah, ti ha pagato. Dopo lo guardo un po', il WhatsApp non era andata la foto. Ehi, avevo la moto zappa, sì, ti ho mandato la moto zappa. Andare, vai tu. Infatti, beh, ci sono di quelli, sono buoni. Escono bene anche. Ah, già va bene, io a voglia. Va benissimo, una radio di 30 anni, forse anche qualcosina in più, però va bene. Guarda, Massimiliano, la radio di prima era molto superiore a quelli di adesso. Ma ascolta, ma perché secondo te questo Galaxy Saturn sarà intorno ai 25 anni, 30 anni anche questa, me l'ha dimesso sia giovanotta. Ma infatti sto dicendo, quella radio lì non la fanno più, capito? Perché ho visto queste radio che stanno facendo adesso, sono una schifezza, una schifezza dentro. Con questo circuito stampato a fine fine, tutte mandorle, piccole, gatte, prima il piccolino, la cagata proprio. Guarda, l'unica cosa di buono è Galaxy che c'ha l'alimentazione, vabbè, sia a 13.8 che a 2.20. Alla fine all'interno è un Galaxy Pluto, non ti pensa che sia chissà cosa, però cioè, esteticamente fa arredo, è bellina, cioè, poi se ne trovano molto pochi adesso, ecco. E quando sono già per gli stili radio così si rifate di bagappolo. Infatti, è una bella radio, sì, anche perché non c'è bisogno di alimentatore né niente, c'è il trasformatore incorporato, capito, lo fai andare a 2.20 e va benissimo. Eia, sì, io ce l'ho così lo stesso, a 2.20, col carne più 3, e va bene, ok, vai tu. Infatti, mi è sul telefono, su WhatsApp, stavo leggendo, ce ne sono due, uno dorato e uno nero. 520 euro tutti e due. Però quello dorato non è un Galaxy Saturn, quello dorato potrebbe essere un Excalibur. No, è Galaxy, no Galaxy Saturn, è Galaxy solo. Là c'è l'altro nero, sì. Ah, ok. Veniamo fatto vari tipi comunque. Sono tutti e due parecchio vecchi, più di 30 anni questi sono. C'era scritto su WhatsApp, c'era scritto che sono di più di 30 anni questi qua. Appunto, avanti, chi è che vuole entrare? C'era qualcuno forse voleva entrare. Natalino non c'è più. Sembra di no, sembra che si sia ritirato. Già ci sono in ascolto, che stavo mangiando. Ah, ok, stavi mangiando, mangia allora, mangia. Ho finito. Robalone mangiato? Insomma. Andavi allora, là. Volevo farmi un salto a mangiarmi gli avanzi, però non fa, là. Mica mangia l'agosta, Natalino. Allo gioco, l'antenni mangia però, di l'agosta. Pure la gola. io si tratta male, no? L'ha compreso. Allora, da lì, ma sempre la situazione che abbiamo piazzato con Claudio c'è lì, per intenderci, è sparito di nuovo, là. Sì, ma sempre quella c'è. Sempre quella lì c'è, cazzo di aggravaglio. Ma infatti l'avevo buttato a terra con l'antenna, perché quando piove è un casino. Lì bisogna essere almeno in due. Lì bisogna fare tagliare, svettare il bollone e fare scendere l'antenna con la plancia e tutto giù, più capito? Perché quello di su praticamente non fa salire, è un casino. Già lo so, infatti abbiamo escogitato questo coso proprio per questo motivo, perché non lo facciamo salire. Non lo butti giù e dopo come te ne date dopo? E dopo con due scale ti lasci dallo. No, adesso c'è anche un motore scopico, capito, Massimiliano? L'hai cambiato? No, la deve piazzare con il motore scopico con l'antenna. Quella che deve montare adesso. Va bene, là. E se non è un casino, come fai? Però lì ti devi ancorare bene. Lì è un casino, lì bisogna lasciare prima la scarpe e poi buttare giù l'antenna e rimetterle fissata nella scarpa nuova e portata su quel telescopico fino all'altezza che deve andare. E vi vuole i tiranti, muro? Ci vogliono anche i tiranti, sì. Per forza, perché poi se supera quel palazzo, da dove la metti? È un bel alto, mi sembra bassa, ma è un bel alto. Lo so. E poi un'antenna riflette un bel anche. Cosa fa? Che quel tipo di antenna riflette un casino, Massimiliano. Ma questa che c'è adesso? No, quella che vuole portare in lui. Che cosa vuoi fare? Io mi ho lasciato tutto così. Però il problema è quando piove di salgo la stazionaria, capito? Io mi ricordo, ma non avevamo vulcanizzata quell'antenna, io mi ricordo di sì. No, si bagna la bobina, entra dentro dove c'è la bobina, mi manda tutto in corto. Magari allora... Non lo so, ma se la tiri giù io devo aver rimesso a casa, era in nuova questa antenna, mi la tiri, tu vedi, un paio d'anni ha cazzato. Purtroppo è successo anche altra gente che gli è entrata acqua nella bobina, come piove ti salgono le stazionarie a 2,5. Vabbè, comunque il problema già si può risolvere. Si butta giù, si vulcanizza bene, si riporta su. È inutile porre una antenna a tipo come va il vento con l'antenna. Tu vuoi mettere una di quelle, così? La Game Master Show, quella lì devo piazzare. Vabbè. E quanto ci devi salire ancora però? Oltre quella che c'è adesso, per esempio, quanto tubo devi aggiungere ancora? Uno da 4 metri ne ho, ne salgo 3 metri così un metro rimane dentro, almeno sale di altri 3 metri, sennò è un macello, che basta l'antenna. Lo so, è un casino, è un punto strano poi, capito? Almeno è senza radiali, senza niente di lusso. Non pesa nulla. Sai che sei in una posizione strana, poi c'hai dei vicinati che se ti avrebbero dato il permesso avresti fatto anche un bel lavoro, capito? Con il permesso a salire sul tetto fai un bel lavoro. Allora la cosa era stata diversa. A salire da